Mediaset. Approfondimento settimanale sul lavoro, Metropoli Controllo. Un programma di Cristiano Muccini e Andrea Pavin in collaborazione con Amisnet. Saluto a tutte e tutti dalla redazione di Mediaset, programma settimanale di riflessione e approfondimento su temi quali il lavoro, il controllo e lo spazio urbano. La trasmissione si articolerà e si svilupperà in un ciclo di 12 puntate attraverso la lettura critica di articoli e saggi con ospiti e interventi telefonici, con l'ausilio di musica ed estratti audio ad hoc. Oggi dagli studi di Amisnet con Andrea alla regia e Cristiano per parlare sulla centralità di un particolare tipo di consumo nello spazio urbano e in particolare su una delle sue forme, il consumismo. In questa mezz'ora cercheremo di mettere in relazione le dinamiche del consumo con quelle relative ai salari. Economico che in pochi anni ha raddoppiato il suo reddito ed ha superato le tradizionali regole psicologico del risparmio, stimolato dagli incentivi più evidenti, l'esempio, l'emulazione, la pubblicità, le facilitazioni d'acquisto. Questo consumatore medio è un incalcolabile serbatoio che può permettere alla produzione di mantenersi ai livelli raggiunti e di superarli trionfalmente, purché venga costantemente controllato, sondato, sviato, incitato, frustato. L'invecchiamento psicologico del prodotto è forse il principale alleato della nostra industria in una congiuntura come l'attuale, che vede i larghi strati di consumatori profilarsi in periodo della piena saturazione. Sottovalutare questo pericolo equivarrebbe a chiudere gli occhi di fronte al problema numero uno dell'industria, che è quello di evitare ad ogni costo un calo della produzione. Loro signori dovranno perciò studiare sempre nuove campagne di richiamo per far nascere nuovi desideri, nuovi bisogni e provocare qualcosa come uno stato di scontentezza sistematica nei consumatori. Certo che non va mai dimenticato che il consumatore non è soltanto un miscuglio di impulsi e di motivi inconsci da attivizzare ai fini del consumo. Molte volte noi, fidandoci troppo dell'inconscio, sottovalutiamo il conscio, la ragione, la prudenza, la modestia, il sentimento e il buonsenso, che sono anche fattori di primo piano, e ci troviamo di fronte a degli successi di cui non sappiamo farci ragione. In questi casi sarà tuttavia sconsigliabile di abbandonarsi al pessimismo e bisognerà sempre tener presente che ormai il consumatore si condiziona da se stesso e quella spinta competitiva che siamo riusciti ad imprimere alla società del suo tempo ormai fa parte della sua natura, del suo io, e lo stimola a raggiungere sempre nuovi traguardi. Partiamo dalle note di Pollo d'allevamento, un film di Gregoretti, per appunto cominciare con la definizione di consumismo, definizione che prendiamo da Wikipedia. Per consumo si intende qualsiasi attività di fruizione di beni e servizi da parte di individui, di imprese o della pubblica amministrazione, che ne implichi il possesso o la distruzione materiale o la distruzione figurata, questo nel caso dei servizi. Partiamo anche dal consumo. Il consumismo è un termine usato per descrivere gli effetti dell'identificazione della felicità personale con l'acquisto, il possesso e il consumo continuo di beni materiali, generalmente favorito dall'eccessiva pubblicità. privatizzazione dello spazio pubblico, l'erosione della comunità che definisce la metropoli, schemi stradali, parchi degli affari, sviluppo delle aree dello shopping, il tutto da aggiungersi alla disintegrazione della società e all'appiattirsi della realtà. Ogni posto diventa lo stesso come ogni altro, la comunità diventa merce, uno shopping village sicuro e sotto costante sorveglianza. La socialità per individui è poi realizzata altrove, attraverso lo spettacolo e il media system, venduto poi a noi in forma simulata. Una telenovela, insomma, la strada o la piazza virtuale. Le vere strade sono sterili e prescindono dagli autentici bisogni di socialità e di scambio propri dell'individuo. Lo spazio urbano esiste solo come supporto a qualcos'altro, come supporto dei cartelloni della pubblicità, le vetrine, come le pompe di benzina. Andiamo ad esaminare brevemente un saggio di Massimo Ilardi nei territori del consumo totale disobbediente dell'architetto, un'edizione di Derive a Prodi. Appunto in questo saggio Ilardi esordisce dicendo che ci sono diverse tendenze nel considerare gli individui che consumano, utili idioti eterodiretti o gioiose macchine da guerra, così li definisce, che costruiscono mondi sempre nuovi e fantastici, o edonisti alla continua ricerca del piacere, o esteti neoromantici o nomadi instancabili che, avendo perso il gusto di attraversare frontiere che sempre più sbiadiscono e si confondono, si rifugiano alla fine tra i banchi di scintillanti shopping center, sperando di annusare tra gli oggetti, come cercatori di tartufi, quelle differenze e diversità che nello spazio globalizzato degli uomini vanno impallidendo. Ognuna di queste figure, l'idiota, il creativo, l'edonista, l'esteta, il nomade, fa parte dei meccanismi che mettono in moto il consumo, considerato oggi il principio ispiratore del modo di essere dell'individuo nel mondo, la molla che trasforma l'esistenza individuale in un'esistenza da consumatore. Su cui riflettere è l'appiattimento sempre più marcato della democrazia sul sistema di mercato e sulle sue elite. Se è vero che ci può essere mercato senza democrazia, dice Ilardi, non è vero il contrario, non c'è infatti una democrazia senza un sistema di mercato. Questo legame è un fatto storico stupefacente. La democrazia cede sempre maggior potere alle lobby economiche, prende a modello istituzionale l'azienda, usa il paradigma pubblicitario come mezzo di comunicazione, utilizza logiche di mercato nell'ambito della proprietà pubblica, commercializzando la cittadinanza. Ce la faccio più. Andiamo a leggere insieme, ad analizzare un degli scritti di Paolo Capuzzo, in cui parla di città e culture del consumo, nello specifico culture del consumo e spazio urbano. Capuzzo appunto dice che la città come luogo di mercato, transazioni commerciali e comunicazione nel quale si incontrano diverse culture ha giocato un ruolo fondamentale nel superamento dell'antico regime del consumo, vale a dire la regolazione delle pratiche di consumo secondo norme in qualche modo incardinate nella struttura cettuale della società che potevano trovare anche sanzione giuridica nelle leggi suntuarie. L'urbanizzazione e la crescente divisione del lavoro hanno ampliato il ricorso al mercato per i consumi e stimolato lo sviluppo di infrastrutture commerciali. Gli sviluppi nei trasporti, nei canali navigabili e strade tra fine 7 e inizio 800 e ferrovie verso la metà dell'800 hanno permesso di allargare e integrare i mercati favorendo una maggiore concorrenza commerciale grazie alla possibilità di spostare le merci con maggiore rapidità, puntualità e a minori costi. Le città vennero rifornite meglio e la crescente importanza del consumo ne influenzò la geografia, la morfologia e in generale il paesaggio. I grandi magazzini sono stati fattori di modernizzazione, hanno introdotto innovazioni tecnologiche per stupire e affascinare i consumatori e allestito un seducente teatro per l'esposizione delle merci, ma sono diventati anche macchine per vendere e organizzare secondo nuovi principi manageriali che regolavano il lavoro, il marketing e la pubblicità. Un ulteriore capitolo nel rapporto tra culture del consumo e città è rappresentato poi dalla crescita del settore turistico nell'Europa del Novecento, questo chiaramente è sotto gli occhi di tutti, e questo sviluppo del turismo ha alimentato l'urbanizzazione di regioni che in precedenza stavano ai margini dei circuiti economici. È dal turismo che sono venute le risorse per la modernizzazione di queste città. Basti andare a vedere le coste, quasi tutte le coste della Spagna, per andare a vedere come ha influito il turismo e quindi il consumo legato al turismo sulla vita e sulla vivibilità delle comunità locali in quei luoghi. In conclusione, analizziamo l'intreccio tra lo sviluppo urbano e il consumo. Da un lato della storia urbana, lo studio delle infrastrutture e delle culture del commercio e del consumo conduce ad una riconsiderazione dell'impatto morfologico della commercializzazione della società. Dall'altro lato, il consumo è uno dei principali motori che producono forme e segni nella città contemporanea. Anche aspetti come l'arredamento urbano, magari più effimeri rispetto a quelli della dimensione edilizia, ma altrettanto efficaci nel definire la forma e il passaggio della città. La socializzazione e le forme culturali che passano attraverso aree commerciali inserite in contesti urbani entro i quali vanno comprese. Negli spazi del consumo le strategie di marketing interagiscono con le pratiche sociali, le alimentano ma al tempo stesso se ne nutrono. Andiamo poi a vedere come influiscono le dinamiche del consumo in relazione ai salari e quindi al potere d'acquisto dei lavoratori. Andiamo a leggere uno stralcio di un articolo di Francesco Arcucci sull'inserto di Repubblica Affari e Finanza dell'8 gennaio 2007. In questo articolo, appunto, Arcucci ci parla di un pericolo di una grande recessione reale. Questo è chiaramente legato ai consumi, ossia se in un tempo si riusciva comunque a seguito di boom economici a stare dietro a questa macchina del consumo, attualmente si rischia di cadere in una, appunto, in una grande recessione, ossia se i paesi occidentali avanzati sono riusciti a vincere negli anni 80 l'inflazione e a ridare fiato ai profitti delle imprese, oggi non riescono a ridare fiato all'economia attraverso la necessaria espansione del monte salari, poiché la globalizzazione è più forte della capacità dei pubblici poteri di controllare l'economia. È vero che fino a questo momento il 97% della popolazione è riuscita a conservare il proprio tenore di vita per via del rialzo del prezzo degli immobili oppure dell'agevole accesso al prestito personale e dei bassi prezzi dei manufatti importati, ma la verità è che tutto ciò non è destinato a continuare. La voragine salariale rischia di trascinare con sé una terribile crisi economica da carenza di domanda ed eccesso di offerta, come negli anni 30 del secolo scorso. Finisce l'articolo Francesco Arcucci, appunto, mettendoci, come dire, molto in guardia circa quello che potrebbe accadere in un futuro prossimo. Chi si rallegra oggi degli elevati profitti delle aziende quotate in borsa e dei conseguenti rialzi dei prezzi delle azioni non capisce che sì, sono un chiaro segno di un malessere diffuso nel tessuto sociale, per esempio l'impoverimento più in generale di tutti i cittadini, e tutto ciò è suscettibile di scatenare una crisi borsistica ben più grave di quella che molti si possono immaginare. Thank you. facciamo una riflessione finale su tutto ciò che abbiamo detto. Il consumo in tutte le sue forme è inserito in una struttura sociale. La differenza è questo, che il consumo è legato a delle forme comunitarie, dove lo scambio di diversi beni è legato a delle forme di socialità dirette. Nello spazio urbano non diventa più una forma di dipendenza dalle relazioni sociali. Nello spazio urbano il valore di scambio dei beni si astrae in definitiva dal valore d'uso e quindi dai bisogni reali degli individui. La trasmissione è finita, salutiamo tutti gli ascoltatori e ci diamo appuntamento alla prossima settimana.